Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. Dalla stazione di Mozzatenango ci vollero 10 ore per percorrere i 120 chilometri che ci separavano da Guatemala. In 5 ore, il giorno dopo, un aereo ci trasportò a Messico. «Finalmente una vera città, una città dove succedono cose», disse Lewis nel tassì. «Io amo le città», aggiunse. «Anch'io». Facemmo una quantità di passeggiate quella settimana. Scalammo le grandi piramidi e vogammo in barche fiorite. Oziammo sull'Avenida Jalisco, nei suoi miseri mercati, nelle sue sale da ballo, nei suoi music halls. Andammo in giro per la periferia bevendo tequila in bar malfamati. Contavamo di restare ancora un po' a Messico, di passare un mese a visitare il paese e poi di tornare per qualche giorno a Chicago. Ma un pomeriggio eravamo appena rientrati in camera per la siesta quando Lewis mi disse all'improvviso: «Devo essere giovedì a New York». Lo guardai sorpresa. «A New York? Perché?» me lo chiede il mio editore. «Ma non siete obbligato ad accettare», dissi. «Sì, sono obbligato», disse Lewis. «In Francia magari sarà diverso, ma qui un libro è prima di tutto un affare e se si vuole che renda bisogna occuparsene. Dovrò vedere gente, andare a ricevimenti, dare interviste. Non è affatto divertente, ma è così». «Non li avevate avvertiti che non sareste stato libero prima di luglio? Non potrebbero rimandare tutto fino a luglio?» «Luglio è un cattivo momento. Bisognerebbe aspettare fino a ottobre e ottobre è troppo tardi». «Capisco», dissi. «Capivo. Eppure sentivo uno strano vuoto alla bocca dello stomaco». Lewis si mise a ridere. «Eccola qui, questa povera francesina. Che aria disperata, non appena le mandiamo qualcosa per traverso». Arrossì. Era ben vero che Lewis pensava sempre solo a farmi piacere. Per una volta che si occupava dei propri interessi non avrei dovuto sentirmi frustrata. Mi trovava egoista. Ecco perché la sua voce era stata un po' aggressiva. «È colpa vostra», dissi. «Ma avete troppo viziata». Sorrisi. «Oh, sarà bello andarcene in giro insieme per New York». New York era torrida. Già al mattino il cielo bruciava. Lewis non amava affatto il genere di vita che gli infliggevano qui, le mondanità, la pubblicità. Se ne andava scontroso ai suoi pranzi, ai suoi ricevimenti, ai suoi cocktails, e ne tornava ancor più scontroso. Io non sapevo che fare, dove andarmene. Il peggio era che quando ci ritrovavamo, le cose non andavano molto meglio. Lewis, a raccontarmi le faccende noiose della sua giornata, s'annoiava e io non avevo niente da raccontargli. Quella sera, quando entrò in camera, pareva d'ottimo umore. Aveva passato il pomeriggio alla registrazione di un'intervista per la radio e io m'ero aspettata di vederlo tornare in collera. Invece m'abbracciò allegramente. «Vestitevi, presto! Pranzo con Jack Murray e voi venite con me. Voglio che lo conosciate e anche lui muore dalla voglia di conoscervi. Vorrei molto che Murray vi piacesse». «Perché?» «Perché abbiamo fatto dei progetti. Ha una casa in un piccolo villaggio vicino a Boston. Ci chiede di andarci e di restarci tutto il tempo che vorremo. Sarebbe assai meglio che rientrare a Chicago. A Chicago deve fare ancora più caldo che qui». Sentii di nuovo un gran vuoto alla bocca dello stomaco. «Ma lui ci abita in questa casa o non ci abita?» «Ci abita con sua moglie e 2 marmocchi. Ma non abbiate paura», disse in tono scanzonato. «Avremo una camera per noi». «Ma Lewis», dissi, «io non ho voglia di passare quest'ultimo mese con altra gente. Preferisco aver troppo caldo a Chicago, ma sola con voi». «E io non vedo perché si dovrebbe restare insieme da soli giorno e notte col pretesto che ci si ama», disse Lewis con voce brusca. Prima che potessi rispondere, entrò nel bagno e chiuse la porta. «Cosa vuol dire? S'annoia davvero con me?» mi chiesi con angoscia. Toccai le chiavi che aveva gettato sul tavolo, il portafoglio, il pacchetto di Camel. Come potevo amarlo talmente e conoscerlo così poco? Tra le carte sparse notai una lettera con l'intestazione dell'editore. La spiegai. «Caro Brogan, visto che preferite venire subito a New York, d'accordo, faremo tutti i preparativi necessari. D'accordo per giovedì a mezzogiorno». Mi lasciai cadere in una poltrona. Aveva scritto quella lettera dopo appena 8 giorni dalla notte di Cici Castenango, da quella notte in cui aveva detto «Vi amo, stupida piccola parigina». Perché aveva deciso di abbreviare il tempo della nostra solitudine? Perché m'aveva mentito? Perché? Faceva fresco nel ristorante di Central Park. Murray era tutto rotondo, testa, viso e corpo. Era per questo, forse, che veniva voglia di aggrapparsi a lui come a una boa di salvataggio. E che voce gentile aveva. Mi resi conto, ascoltandola, di quanto fosse diventata asciutta la voce di Lewis. Mi parlò dei libri di Robert, di quelli di Henri, pareva al corrente di tutto. Era facile chiacchierare con lui. Capivo che Lewis avesse voglia di farsene un amico. Capivo anche a rigore che volesse passare questo mese da lui, ma questo non mi spiegava la menzogna di Messico, non mi spiegava l'essenziale. «Posso lasciarvi da qualche parte?» chiese Murray avviandosi all'automobile. «No, ho voglia di camminare», dissi vivamente. Salì in macchina e noi ce ne andammo a piedi attraverso il parco. Indicai una gran pietra in mezzo al prato. «Sediamoci». Scoiattoli grigi correvano tra l'erba. Lontano brillavano i grandi buildings. Dissi con voce neutra: «Poco fa, mentre facevate la doccia, avete lasciato delle lettere sul tavolo». Cercai il suo sguardo. «L'editore non esigeva affatto che veniste a New York adesso. Siete stato voi a proporglielo. Perché mi avete detto il contrario?» «Ah, leggete le mie lettere adesso», disse Lewis con voce irritata. «Perché no, visto che voi mi mentite?» «Io vi mento e voi frugate nelle mie carte, siamo pari», disse con ostilità. «Lewis, non capisco più niente. Eravamo così felici a Messico. Perché avete deciso di venire a New York? Sapevate bene che non avremmo potuto vederci quasi più. Sempre indiani, sempre rovine, cominciavo ad averne abbastanza», disse Lewis. Alzò le spalle. «Ho avuto voglia di cambiare aria, non vedo cosa ci sia di tragico». Non era una risposta, ma decisi di contentarmene provvisoriamente. «Perché non mi diceste che ne avevate abbastanza del Messico? Perché quelle manovre?» chiesi. «Voi non m'avreste lasciato venire a New York», disse Lewis, «m'avreste costretto a restare laggiù». «Vi sbagliate», mormorai. «Io non esigo niente». «Oh sì, voi partite e tornate quando vi piace, ma finché siete qui io debbo assicurarvi una perfetta felicità». «Siete voi a essere ingiusto», dissi, ma la voce mi morì in gola. Improvvisamente capivo. Lewis me ne voleva perché avevo rifiutato di restare con lui per sempre. Quel viaggio a New York, i progetti con Murray, erano rappresaglie. «Me ne volete», dissi. «Perché?» «Non è per colpa mia, lo sapete bene». «Non ve ne voglio. Penso soltanto che non bisogna chiedere più di quanto non si dia». «Non m'amate più come prima». Lewis esitò. «Penso che l'amore sia meno importante di quel che avevo creduto». «Vedo», dissi. «Visto che in ogni modo dovrò ripartire, che adesso ci sia o non ci sia non fa tanta differenza». «Già, pressa poco», disse Lewis. Mi guardò, cambiò voce. «Eppure v'ho talmente aspettata», disse con emozione. «Per tutto l'anno non ho pensato ad altro. Come v'ho desiderata». «Sì», dissi tristemente. «E adesso...» Lewis mi passò un braccio intorno alle spalle. «Adesso vi desidero ancora». «Oh, in questo modo», dissi. «Non soltanto in questo modo», mi strinse più forte. «Mi sposerei subito». Chinai la testa. Mi ricordai della stella filante sul lago. Lewis aveva espresso un desiderio e quel desiderio non era stato esaudito. Io, che m'ero promessa di non deluderlo mai, l'avevo deluso irrimediabilmente. Ero la sola colpevole. Mai più avrei potuto volergliene. Di niente. Thank you. La mattina, mentre prendevamo il caffè, attaccai. Lewis, ho pensato a noi tutta la notte. Avreste fatto meglio a dormire. Ma la sua voce era amichevole, pareva meno teso. Il suo sfogo del giorno prima l'aveva probabilmente sollevato. Ma avete detto ieri che io vi irrito perché chiedo più di quanto non dia, dissi. Sì, il torto è mio, ma non lo farò più. Prenderò quel che mi darete e non esigerò mai niente. Lewis voleva interrompermi, ma io continuai. Prima di tutto saremmo andati da Murray, era inteso, e poi non volevo che si credesse obbligato per sempre a quella fedeltà che finora sarei imposta. Durante la mia assenza avrebbe dovuto sentirsi libero come se io non fossi esistita. Visto che la nostra storia non gli dava tutto quello che lui avrebbe desiderato, almeno non l'avrebbe privato di niente. Lewis m'aveva ascoltata con aria attenta. Scosse la testa. Non è così semplice. Lo so, dissi. Dal momento che si ama, non si è più liberi. Ma non è la stessa cosa amare qualcuno che crede di aver diritti su di voi o qualcuno che crede di non averne affatto. Oh, non mi importerebbe affatto che una donna credesse di avere diritti su di me se io non gliene riconoscessi, disse Lewis. Aggiunse, non parliamo più di tutto questo. Davvero non vi dispiace di venire da Murray? Anzi, mi divertirà. Allora partiamo stasera. Lo guardai sorpresa. Credevo che aveste ancora tante cose da fare qui. Lewis si mise a ridere. Non le farò. L'indomani mattina eravamo già con i Murray in uno studio dalle grandi vetrate. La casa era un po' fuori del villaggio, in cima a uno sperone roccioso. L'azzurro del cielo e il rumore del mare entravano dalle finestre. Prendemmo le biciclette dei Murray e andammo al villaggio. Passeggiammo sul molo, restammo a lungo a guardare le barche, i pescatori, le reti, i pesci. Respiravo l'odore fresco della marea. Il sole mi carezzava. Lewis mi teneva il braccio e rideva. Dissi con slancio, che bella mattina. Povera piccola parigina, disse Lewis con voce tenera. Quanto poco le basta per credersi in paradiso. Il cielo, il mare, l'uomo che amo, non è così poco. Mi strinse il braccio. Via, non siete molto esigente. Mi contento di quel che ho. Avete ragione, disse. Bisogna contentarsi di quel che si ha. Il cielo diventò ancora più azzurro, il sole più caldo, e io sentii in me una gran gioia che cantava. «Ho vinto!» mi dissi. Avevo avuto ragione d'accettare di venir qui. Lewis si sentiva libero, capiva che il mio amore non lo privava di niente. Murray ci portò in casa d'amici dopo cena. Lewis decisamente non finiva mai di stupirmi. Non avrei mai creduto che in società potesse essere così brillante. Raccontò il nostro viaggio con tale felicità di invenzione che il suo Guatemala era più vero del vero. Venne a tutti voglia di andarci. Quando imitò i piccoli indiani che trottavano sotto i fardelli, diverse donne esclamarono «Sareste un attore meraviglioso! Come racconta bene!» Lewis si fermò di colpo. «E voi che pazienza avete!» disse sorridendo. Aggiunse «Io detesto i racconti di viaggio». «Oh, continuate!» disse una bionda. «No, ho finito il mio numero», disse avviandosi al buffet. Bevetti anch'io, ballai, chiacchierai. Mi accorsi all'improvviso che Lewis era sparito. Gettai un'occhiata in cucina, nell'atrio, e uscii. Lewis era seduto su una panchina, solo. «Cosa fate qui?» chiesi. «Mi riposo». S'alzò. «Venite, passeggiamo un po'. È una così bella notte». «Dobbiamo tornare da loro, Lewis. S'accorgeranno della nostra assenza». «E con questo? Io non ho niente da dirgli, né loro a me». «Ma sono amici dei Murray, non sarebbe gentile sparire così». Lewis sospirò. «Quanto mi piacerebbe una piccola moglie indiana che mi seguisse dovunque volessi senza protestare». Rientrammo, ma Lewis aveva perduto tutta la sua allegria. Bevve molto e non rispondeva più che con grugniti alle domande che gli facevano. Sedette accanto a me e si mise ad ascoltare la conversazione con aria di rimprovero. Io dissi a Murray che in Francia molti scrittori si chiedevano se scrivere oggi avesse ancora un senso. La conversazione s'animò e divenne discussione appassionata. Il viso di Lewis diventò ancora più scuro. A un certo punto esplose. «Perché si scrive? Per chi si scrive? Se cominciamo a domandarci questo, non scriviamo più. Si scrive, ecco tutto, e la gente legge». Si scrive per la gente che legge. Sono gli scrittori che nessuno legge mai a farsi queste domande. Ci fu un momento di gelo, tanto più che in realtà c'erano lì non pochi scrittori che nessuno aveva letto né avrebbe letto mai. Per fortuna Murray aggiustò le cose. Lewis si calmò e un quarto d'ora dopo ce ne andammo. Il giorno dopo Lewis era ancora di pessimo umore. La sera, mentre io chiacchieravo con Murray e sua moglie Ellen, si immerse nella lettura dei giornali. Sapevo che Murray non se la sarebbe presa per così poco, ma ero seccata per via di Ellen. Durante la notte restai sveglia, con gli occhi aperti. Non ci capivo niente. Perché quest'improvvisa ostilità? Probabilmente quando Lewis si metteva così di partito preso a rovinare il nostro soggiorno, era me che aveva di mira. I suoi risentimenti erano ancora vivi. ebbi un impeto di rivolta. Cosa vuole? Cosa farà? Cosa pensa? Ero lì a torturarmi di domande e lui intanto riposava tranquillamente, lontano dai propri pensieri. Era una cosa troppo ingiusta. Cercai di fare il vuoto in me, ma era impossibile. Non riuscivo a dormire. M'alzai senza rumore. Improvvisamente avevo voglia della frescura dell'acqua. Misi il costume da bagno e il vestito da spiaggia, presi il vecchio accappatoio di Lewis e scesi a piedi nudi attraverso la casa addormentata. Com'era vasta la notte. Infilai i sandali e corsi fino alla spiaggia. Mi sdraiai sulla sabbia. Faceva caldo. Chiusi gli occhi sotto le stelle. Il rumore del mare m'addormentò. Quando mi svegliai, un grande astro rosso emergeva dall'acqua. Era il quarto giorno della creazione. Il sole era appena nato. La sofferenza delle bestie e degli uomini non era stata ancora inventata. Mi lasciai assorbire dal mare. Galleggiavo, coricata sul dorso, gli occhi pieni di cielo, e non pensavo più a niente. Ann! Mi voltai verso la spiaggia, una terra abitata, un uomo che chiamava. Era Lewis, in calzoni di pigiama, torso nudo. Ritrovai il peso del mio corpo e nuotai verso di lui. Eccomi! Mi venne incontro. L'acqua gli arrivava al ginocchio quando mi prese tra le braccia. Ann! Ripeteva. Ann! Ma attento, vi state inzuppando! Dissi tirandolo verso la spiaggia. Aspettate che sia un po' asciutta! Non lasciò la stretta. Ann! Che paura ho avuto! V'ho fatto paura! È la prima volta che mi succede! Ho aperto gli occhi, il letto era vuoto e voi non tornavate! Sono sceso, v'ho cercata per tutta la casa e non c'eravate! Son venuto qui e non vi vedevo! Ma non avrete creduto che mi fossi annegata! Non so cosa credevo. È stato come un incubo. Raccolsi l'accappatoio. Strofinatemi e asciugatevi anche voi. Obbedì e io mi infilai il vestito. Sedetevi accanto a me, chiese. Mi sedetti e Lewis m'abbracciò di nuovo. Siete qui. Non vi ho perduta. Dissi con slancio. Non mi perderete mai per colpa mia. Restò a lungo a carezzarmi i capelli, in silenzio. Improvvisamente disse: Ann, torniamo a Chicago. Desidero tanto essere solo con voi. La sera stessa del nostro arrivo ho capito che sciocchezza avessi fatto. Lewis, anch'io vorrei tanto essere sola con voi, dissi. Gli sorrisi. Era questo a tenervi di così cattivo umore? Rimpiangevate d'essere venuto qui? Sì, mi sentivo preso in trappola e non vedevo modo di uscirne. Era terribile. E ora vedete un modo? Chiesi. Mi guardò con aria ispirata. Dormono. Facciamo le valigie e filiamo. Sorrisi. Cercate piuttosto di spiegarvi con Murray. Capirà. E se non capisce, tanto peggio, disse Lewis. Lo guardai un po' inquieta. Lewis, siete davvero sicuro di voler tornare? Non è un capriccio? Non lo rimpiangerete? Rise piano. So benissimo quando faccio qualcosa per capriccio. Vi giuro sulla vostra testa che questa volta sono serio. Cercai di nuovo il suo sguardo. E quando avremo ritrovato la nostra casa, credete che ritroveremo anche il resto? Che tutto sarà come l'anno scorso, o quasi? Come l'anno scorso, disse Lewis con voce grave. Mi prese il viso tra le mani e mi guardò a lungo. Ho cercato di amarvi meno. Non ho potuto. Oh, non cercate più, dissi. Non cercherò più. Non so cosa Lewis gli raccontò, ma Murray era sorridente quando ci accompagnò all'aeroporto l'indomani sera. Lewis non aveva mentito. A Chicago tutto mi fu reso. Quando ci lasciammo, all'angolo del viale, mi strinse tra le braccia dicendo: «Non vi avevo mai tanto amata».